Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Allora, ben ritrovati a Rock Wave Live, Io mi racconto, e con Gilles Facchinelli e Radio Cooperativa. Do subito spazio, perché poi magari i tempi si accorciano e non riusciamo a fare tutto quello che poi è previsto per l'intervista. Do il benvenuto a Matteo Camellini. Ciao Matteo. Ciao, come va? Benissimo, benissimo. Dove ti trovi in questo momento? Nella mia cameretta a Sassuolo, vicino Modena. Perché tu? In casa, col mio pianoforte. Stavo provando fino a poco fa e poi mi è arrivata la tua chiamata. È la tua compagnia, ho visto, il pianoforte, no? Sì. Impariamo a conoscerti, appunto, di dove sei, l'abbiamo detto, e possiamo dire anche l'età, tanto non sei una donna, quindi non hai problemi, anche perché sei giovanissimo poi alla fine. Ho 24 anni, 24. Parliamo un po' della tua musica, Matteo, perché tu all'attivo per il momento hai due singoli, non hai ancora un album alle spalle, no? Esatto, il mio primo singolo è stato Illusione, di 2 anni fa. L'ho scritto insieme al mio produttore Alex Bagnoli e insieme a Marco Baroni, e il 18 gennaio di quest'anno invece è uscito il mio secondo, che si chiama Dire di No, che ho scritto in collaborazione anche con Silvio Barbieri, che è Silver. Sì, sono stati degli anni molto, molto importanti, perché io ho scritto in realtà tantissimi inediti, tantissimi pezzi, però stiamo cercando di buttarli fuori, tra virgolette, passami il termine, un po' alla volta, perché così io posso continuare a scriverne e a pubblicarne allo stesso tempo. Quindi hai parecchia roba nel cassetto, però dopo entriamo un po' nel dettaglio di queste canzoni, no? Ascoltandole, anche soprattutto nei testi, parleremo anche di questo, sarà un concept o sarà di varie tematiche? In realtà le tematiche sono tante, però penso di legarle tutte in un concept. Io voglio raccontarmi, voglio essere sincero, voglio dire quello che sono, come vedo il mondo, e quindi da quel punto di vista è un concept, però gli argomenti che tratto in realtà sono diversi. La maggior parte ovviamente sono sul sociale. Adesso ascolteremo alcuni miei brani, penso, quindi salterà fuori che diciamo che l'argomento del sociale mi importa abbastanza. E quindi sì, per ora sono degli EP che contengono comunque dei brani che sono sul sociale, ma vedremo poi cosa salterà fuori da questo concept. Bisognerà fare una scelta. Sono molto curioso di sentire il tuo prossimo EP. Uscirà quando? Hai già un'idea? Magari un'idea ce l'ho, ma non posso condividerla ancora. Non puoi ancora dirlo. Sono molto curioso, perché poi, appunto, sempre non da critico musicale, perché l'ho sottolineato anche all'ospite di prima, è sempre come ascoltatore, diciamo così, della musica, no? Però facciamo così, Matteo, io direi di fare ascoltare l'ultimo tuo inedito, che è Dire di No, e poi entriamo un po' nei dettagli della tua musica, ok? D'accordo. Allora ascoltiamoci Matteo Camellini con Dire di No. E ancora una volta ti senti da sola nel fare quello che vogliono da te. Deserto affiora, bevi la pioggia allungata lacrime, e giudicare punto forte di chi è debole, e superare l'arte di chi vuole vivere. Hai scelto di dire di no, puoi dire di no. Quante volte hai sussurrato al vento, arrivando al punto di dire di no, puoi dire di no. Dire di no, puoi dire di no. E basta guardare avanti, ciao adios bye bye. Puoi dire di no. Dire di no, puoi dire di no. Occhi viola nascosti al cambio d'ora, tanto chi ha visto tutto poi non parlerà, è solo paura, questo dolore urla anche per me, e giudicare punto forte di chi è debole, e superare l'arte di chi vuole vivere. Quante volte hai perdonato il tempo, quante volte hai scelto di dire di no, puoi dire di no. Quante volte hai sussurrato al vento, arrivando al punto di dire di no, puoi dire di no. Dire di no, puoi dire di no. Basta guardare avanti, ciao adios bye bye. Vuoi dire di no, dire di no, vuoi dire di no. E lo sai che non vale la pena di perdersi, anche il dolore in fondo può insegnare, che poi se ci pensi l'arcobaleno viene sempre dopo il temporale. A casa, a scuola, nel retro d'un club, nel freddo del buio di un sottoscala, in metro, in ufficio, nel mondo virtuale, costretti a silenzio, dobbiamo parlare tutti. Ciao adios bye, ciao adios bye bye. Ciao adios bye, ciao adios bye bye. Vuoi dire te te te, vuoi dire di no, vuoi dire di no. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e d'impegno sociale. Ecco, questa canzone, Matteo, entra nei Digital Store in pratica il 18 gennaio, giusto, di quest'anno? Esatto, sì. Che è una canzone autobiografica a cui tu tieni moltissimo, perché, come accennavi prima, parla di un tema di alta attualità sociale. Ma ti lascio raccontare a te questa canzone, Matteo. Cosa sì, significa dire di no? Questo è il mio secondo brano. Come detto prima, ringrazio Alex Bagnoli, Marco Baroni, Silvio Barbieri per avermi aiutato a scriverlo. E diciamo che è uno sfogo mio personale, perché io da piccolo sono stato vittima di bullismo quando ero a scuola alle elementari. Questo brano parla appunto, diciamo, delle minoranze e delle discriminazioni, perché parla di bullismo, violenza, omofobia, violenza psicologica, fisica, insomma tutti questi mostri che purtroppo stanno diventando sempre più attuali, sempre più presenti. Io mi sono sentito in dovere, come autore, come cantante, di scrivere un singolo in cui io potessi sfogarmi, allo stesso tempo potessi mandare un messaggio alle nuove generazioni, perché le persone che mi seguono, i miei fan, sono per la maggior parte dei ragazzi. Io volevo mandare a loro un messaggio di speranza: voi potete dire di no a queste cose, potete ribellarvi, potete trovare il modo per uscirne e non esserne vittime. Questo, in poche parole, è il concept di questo brano. Poi davvero ti devo ringraziare, perché tutte le volte che l'ascolto in radio a me vengono i brividi, perché ricordo le giornate spese in studio con il produttore a cercare i suoni, a registrare le voci, quindi per me è un'emozione fortissima e ti volevo ringraziare. Figurati, perché è una bella canzone. Poi ti dico anche una cosa riguardo alle tue canzoni, perché ne ho ascoltate due e spero di ascoltarne presto anche altre. C'è un messaggio per te, Matteo, qui non alla firma non so di chi, però scrive: Matteo, ti piacerebbe fare un concerto nella tua città di Sassuolo? Magari per l'uscita dell'album. Complimenti per le tue canzoni. Beh, intanto ti saluto, ti ringrazio per il messaggio, e assolutamente sì. Cantare nella mia città è sempre bellissimo, ho avuto la fortuna di cantarci due o tre volte, ma appena uscirà questo disco ho in mente di fare delle cose particolari, quindi sicuramente a Sassuolo ci canterò e spero di vederti. Allora, Matteo, la musica quindi è un bel mezzo per liberare il proprio disagio, i sentimenti e poter trasmettere la forza di ripartire. Quindi un messaggio tramite la musica sicuramente positivo, no? Assolutamente, sì. Questa fusion, no, che hai fatto tra musica e testo, perché il testo è importantissimo, no? È molto, molto bello. E tu sai usare, tu hai usato sapientemente la musica in chiave moderna, orecchiabile, ballabile, e però al suo interno sei riuscito a inserire dei testi che fanno riflettere, perché anche il primo singolo, appunto Illusione, tocca una tematica sociale, e poi ne parleremo. Cioè, dimostri una grande e attenta capacità comunicativa verso i giovani. Ti ringrazio. Sì, diciamo che quando scrivo un brano, oltre a essere attento molto a quello che dico, penso a modo a chi ascolterà quello che dico, e quindi devo cercare sia nel testo che nella musica il mezzo giusto, dosare il linguaggio nel modo giusto. E la musica, per esempio, in questo brano abbiamo pensato sì di scrivere un brano pop elettronico, e si sente, è orecchiabile nel ritornello, nel bop, però io volevo aggiungerci una sfumatura un pochino più dark nelle strofe, perché è lì che davvero racconto la storia. Il ritornello in realtà è come se fosse, tra virgolette, un inno, no? Dire di no, che viene ripetuto molte volte. Nelle strofe invece volevo, in inglese, set the scene, volevo piazzare bene la scena, raccontarla, e volevo che non ci fosse una base che mi sovrastasse. E, sì. Poi per Illusione invece abbiamo pensato al concept di Instagram, dei social network che stanno a volte esagerano e invadono le nostre sfere personali, e lì ho pensato, essendo in estate, comunicando ai giovani, volevo comunicare con un genere che li facesse ballare e allo stesso tempo cantare, ma qualcosa che lasciasse un segno. Certo, e anche oltretutto, se sì, vi invito anche di andare a vedere un po' i video, questo concetto te lo sei ben riportato anche nei due videoclip, sia in Illusione, dove vediamo appunto dei ragazzi che sono lì con il cellulare in mano, che stanno chattando, ma anche oltretutto nel videoclip dire di no, dove trasmetti raccontaci te di questo video di dire di no. Il video è stato girato da James Kai, l'abbiamo scritto insieme. Io volevo avere delle protagoniste femminili. Il video consiste di tre scene, tutte e tre rappresentano un episodio di violenza, che sia psicologica o fisica, sulle donne. Nella prima scena abbiamo una ragazza che entra in contatto con questo uomo non volendo nulla, quindi sceglie di scendere dalla macchina di un parcheggio abbandonato in cui lui la porta, sbatte la portiera e se ne va, quindi dice di no a quella situazione lì. Nella seconda abbiamo una ragazza che è vittima di bullismo in una palestra, dove le sue compagne scelgono di escluderla, e lei invece le affronta e riesce a integrarsi, e questo è un dire di no. E la terza scena abbiamo invece un ufficio di lavoro, quindi una situazione molto comune, e il boss, il capo, se ne approfitta. E purtroppo lì ci sono due colleghi che vedono e fanno finta di niente, e da qui viene una scena una frase della mia canzone: tanto chi ha visto tutto poi non parlerà. Lei però lo denuncia, lei urla, e quindi sono tutte e tre scene in cui lei dice di no alla situazione che sta vivendo. Certo, perché è molto bello, e vi invito ad andarlo a vedere, perché poi Matteo, posso dirlo, perché tu insegni, giusto? Sei anche insegnante, hai degli alunni, sì. E quindi tu parli anche di questo nelle scuole, cerchi di trasmettere, gli fai ascoltare anche le tue canzoni? Sì, qualche volta sì, deformazione professionale. Certo, vabbè, ma comunque è sicuramente per una buona causa, sicuramente ascoltare e vedere le tue canzoni è un invito, sicuramente non ha un aspetto negativo, magari nei confronti di altri cantanti in questi ultimi periodi, che abbiamo visto veramente delle tragedie, per un ascolto a livello comunicativo che è pari a zero. Se metto a confronto le tue canzoni, mamma mia, c'è una, una diversità, cioè questa è veramente una scuola, le tue canzoni nella scuola sono una scuola, questo è il mio punto. Ti ringrazio, a proposito, se posso, faccio un appello agli ascoltatori, posso? Certo, vai Matteo. Io ho in piano questa primavera di fare diversi incontri con i ragazzi direttamente dentro le scuole, nelle assemblee di istituto, con gli insegnanti, con genitori, ragazzi, professori, quindi se qualcuno ci sta ascoltando e volesse incontrarmi dal vivo, a me piacerebbe davvero tanto poter cantare le mie canzoni, ma soprattutto scambiare delle esperienze, parlare, opinioni su questi argomenti, appunto il bullismo, il razzismo, l'omofobia, la violenza. Questo è il mio piano per la primavera, fare un, tra virgolette, un piccolo tour nelle scuole. Io ho ricevuto le richieste anche in giro per l'Italia, compatibilmente con i miei impegni, mi piacerebbe davvero incontrare più ragazzi possibili. Quindi chissà, se qualcuno fosse interessato, contattatemi. Certo, e lo pubblicherò anche in qualche maniera, lo farò conoscere questa cosa, e magari se mi capita volentieri ti metto in contatto con qualche scuola. Tu sei disposto comunque a girare eventualmente, Matteo? Assolutamente sì. Bellissima, mi faccio carico di questa cosa. Mi faccio carico di questa cosa e ti seguirò, perché sono, come ti dicevo, sono molto curioso di quello che farai di qui in avanti. Perché pensate, vi ricordo che voi state ascoltando Matteo di questa problematica sociale che si occupa. Matteo ha 24 anni. Scusami se lo sottolineo, Matteo. 24 anni no. E parlare così di queste tematiche non è cosa semplice, ma sentite come lo affronta in maniera decisa e sicura, avendola anche subita, la serenità comunque di parlarne ugualmente. Altro messaggio, Matteo, qua è un altro numero, non è lo stesso, mi scrivono: ci sarò sicuramente al tuo concerto. H punto. Bene, non vedo l'ora di incontrare anche te. Allora, io direi a questo punto di fare ascoltare Illusione, che è appunto la canzone che si parlava prima di questa tematica dei social, no? Esatto, sì. Ecco, allora lanciamo questa canzone e poi ritorniamo in studio per gli ultimi 5 minuti con Matteo Cammellini. Il mio pensiero fisso resti tu, non mi serve un'altra distrazione e non ti confonderò, come si confonde l'aria con il vento, perché io so bene invece cosa ho dentro, sei distante. Tu che sogni di raggiungere la tua felicità, e nella rete cerchi le tue verità, le strade sono tutte da provare. Oh oh oh, illusione da Instagram, ti perdi dentro un mare di condivisione, poi l'unica cosa che non condividi siamo noi, hai solamente voglia di postare. Oh oh oh, illusione da Instagram, illusione da Instagram. Ti accorgi di me solo quando non rispondo, vorrei sapere cos'è quello che non ti permette di capire che una storia non può nascere da niente virtualmente. Tu che sogni di raggiungere la tua felicità, e nella rete cerchi le tue verità, stare sono tutte da provare. Da Instagram ti perdi dentro un mare di condivisione, poi l'unica cosa che non condividi siamo noi, hai solamente voglia di postare. Oh oh oh, illusione da Instagram. Che siamo così schiavi dei nostri limiti, ma il mondo che voglio non è così. Oh oh, non lo trovi in un PC, ti perdi dentro un mare di condivisione, poi l'unica cosa che non condividi siamo noi, hai solamente voglia. istante. Rock Wave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ci sei, Matteo? Certo che sì. Ecco, allora io ti faccio una proposta, Matteo, visto che questa tematica è interessante. Sai che ci siamo sentiti oggi e ti dicevo che io mediamente una volta al mese dedico anche uno spazio all'interno di Rock Wave Live, io mi racconto, uno spazio a tematiche sociali. Se ti va, magari un giorno organizziamo qui a Padova in studio in diretta e mi faccio carico di portare anche magari uno o due riferimenti di qualche scuola, magari anche un paio di ragazzi in studio, a parlare, far ascoltare la tua musica, ma a parlare anche di queste tematiche, quindi far conoscere un po' nelle Padova o zone limitrofe le tue iniziative. Guarda, ti ringrazio, è un'idea bellissima e già non vedo l'ora di venire lì. Ci sentiamo e ci organizzeremo su questo. Logico che dobbiamo organizzarla con largo anticipo anche per poterla inserire nella programmazione. Assolutamente. Matteo, sarà un grandissimo piacere. E, allora, siamo in chiusura. Io vorrei che tu hai dei riferimenti internet, no? Per dove possono seguirti queste persone? Sì, io uso moltissimo Instagram, che è Matteo Camellini Official, oppure la mia pagina Facebook, Matteo Camellini, e spero di entrare in contatto con più persone possibili e di poter condividere la mia musica con più persone possibili. Ti ringrazio ancora per avermi chiamato, per avermi ospitato, è stato molto bello condividermi con te, quindi certo, ti ringrazio. Grazie, per me è solo un piacere perché veramente ho abbracciato musica ma anche qualche altro argomento interessantissimo. Io volevo lasciarti 30 secondi, Matteo, magari capita sempre che qualcosa non riusciamo a dire, quindi se vuoi lanciare qualcosa ancora nei confronti di questi ragazzi, genitori, oppure qualcosa che non abbiamo detto della musica. Ma io direi semplicemente, ragazzi, adulti, non mollate, tenete duro, parlatene con qualcuno, non mollate, e a qualsiasi situazione, che sia razzismo, bullismo, omofobia, violenza fisica, violenza psicologica, dite di no. Spero di entrare in contatto con voi, i miei contatti li avete, Matteo Camellini Official su Instagram, Matteo Camellini su Facebook, e vi auguro tanto tanto coraggio. Matteo, ti ringrazio a nome anche di tutti questi genitori e ti ringrazio per la tua musica e le tue parole, ok? Grazie mille. E noi ci sentiremo presto. Va bene, volentieri. Matteo Camellini, dire di no. Ciao, buonanotte e grazie a tutti. Ancora una volta ti senti da sola nel fare quello che vogliono da te. Deserto affiora, bevi la pioggia allungata lacrime e giù. E giudicare punto forte di chi è debole. E superare l'arte di chi vuole vivere. Quante volte hai perdonato il tempo? Quante volte hai scelto di dire di no? Puoi dire di no. Quante volte hai sussurrato al vento, arrivando al punto di dire di no? Puoi dire di no, dire di no, puoi dire di no, e basta guardare avanti, ciao, adios, bye bye. Puoi dire di no, dire di no, puoi dire di no. Occhi viola, nascosti al cambio d'ora, tanto chi ha visto tutto poi non parlerà, è solo paura, questo dolore urla anche per me. E giudicare il punto forte di chi è debole. E superare l'arte di chi vuole vivere. Quante volte hai perdonato? scelto di dire di no, puoi dire di no. Quante volte hai sussurrato al vento, arrivando al punto di dire di no, puoi dire di no. Sottoscala, in metro, in ufficio, nel mondo virtuale, costretti a silenzio, dobbiamo parlare. Tutti. Ciao, addio, spy, ciao, addio, spy, bye. Ciao, addio, spy, ciao, addio, spy, bye. Vuoi dire te, te, te, vuoi dire di no, vuoi dire di no, vogliamo tutti dire di no. Di no.